Europa 24. Turchia in primo piano, le discussioni su una possibile reintroduzione della pena di morte, le detenzioni e i licenziamenti di massa e le restrizioni della libertà d'espressione, il risultato dei decreti d'emergenza emanati dopo il tentato colpo di Stato. Sono alcuni dei temi che il segretario generale del Consiglio d'Europa, Torbjörn Jagland, affronterà oggi ad Ankara con i vertici turchi. Jagland solleverà anche la questione dei ricorsi legati all'applicazione dello stato d'emergenza arrivati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quelli presentati alla Corte Costituzionale turca. La Corte di Strasburgo ha ricevuto circa 850 ricorsi, di cui più della metà la settimana scorsa. Migliaia sono invece pendenti alla Corte Costituzionale. Vogliamo e dobbiamo lavorare con gli Stati Uniti, ma dobbiamo farlo alla pari, così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Stati Uniti e UE sono legati da amicizie e credono negli stessi valori, ha aggiunto Juncker. Il nostro rapporto transatlantico è e resterà forte. Il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz era partito per primo e a gamba tesa sull'elezione di Donald Trump. Sicuramente la relazione transatlantica diventerà più difficile, aveva detto parlando alla televisione tedesca di primo mattino. Poi, riallineandosi alla diplomazia di Tusk e Juncker, nelle dichiarazioni ufficiali Schulz si è congratulato col vincitore, augurandosi una buona collaborazione nonostante le diverse posizioni di partenza. Dichiarazioni a parte, però, l'elezione di Trump è davvero un terremoto anche per l'Unione Europea, intesa come membri e come istituzioni. Tutti si dovranno accreditare infatti alla corte del nuovo presidente, la cui elezione era ritenuta improbabile da molti e temuta perfino da altri, paesi baltici ed est europei in testa, che alcuni infatti adesso mettono tra gli sconfitti insieme ad Hillary Clinton. Franco Pavoncello, presidente della John Cabot University di Roma, intervistato da Alessandra Schepisi. C'è preoccupazione per l'Europa perché un'apertura alla Russia, Putin, anche a scapito dei territori europei ed un alleggerimento della posizione degli Stati Uniti nella NATO e un richiamo agli europei a sostenere più i costi chiaramente preoccupa l'Europa fortemente, insomma. Ma non è detto che la ragione di Stato non lo trasformi in pompiere. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Un quadro legislativo europeo contro le pratiche sleali nella filiera alimentare è una delle raccomandazioni contenute nella bozza del rapporto della Task Force sui mercati agricoli. Il documento, firmato da un gruppo di 12 esperti, è il risultato di un lavoro iniziato a gennaio 2016 e sarà presentato dal commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan martedì prossimo ai ministri. Gli esperti invitano le istituzioni europee a fissare un quadro di riferimento con una lista di pratiche sleali riconosciute a livello europeo e raccomandano ai Paesi membri di istituire un organismo pubblico indipendente per assicurare l'efficacia dell'azione di contrasto alle pratiche sleali nella filiera. Al momento non siamo in condizione di dare il nostro ok al riesame del bilancio multiannuale UE, così come proposto dalla presidenza slovacca. Lo dice il sottosegretario agli affari europei Sandro Gozzi. Stiamo lavorando, prosegue, e ci sarà una riunione del Consiglio d'Affari Generali martedì prossimo. Alla luce delle proposte che arriveranno, valuteremo. Mai essere pessimisti né ottimisti, dice ancora Gozzi, bisogna essere determinati nelle proprie priorità e l'Italia è molto determinata. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.